Cari amiche, cari amici, bentrovate, bentrovati, è martedì sera, siete in compagnia di Brussellando, Maridì ai microfoni, un po' infreddolita, forse si sente anche dalla voce, perché nonostante tutto, nonostante ci siano giornate bellissime di sole, la temperatura stenta a decollare, quindi forse perché è la fine dell'inverno, forse perché ci sono questi scampoli di primavera che speriamo in realtà non siano soltanto, insomma, abbagli. Quindi si dice che una rondine non faccia primavera, quindi effettivamente, essendo anche a Bruxelles, atteniamoci a questo Ma a proverbio. Bruxelles ci sono le rondini. Ma sì, dai, penso di sì, insomma, non che sia un'esperta specialista, però mi sembra di capire Chiederemo a George, che questo è un paese che veramente non finisce mai di stupirci, quindi tutto quello che poi il mondo che non ci appartiene, perché in un certo senso da questo punto di vista non ci appartiene, pare che qui esista tutto, quindi bah, io non mi esprimerei in maniera diversa. Ecco, mi piace pensare che pure a Bruxelles ci possano essere le rondini. Dai, ci crediamo, ci crediamo. Ci crediamo. Oggi è martedì, è un po' speciale, è uno di quei martedì che chissà quante volte capita nella storia. È un martedì in cui si festeggiano due cose totalmente diverse l'una dall'altra. Oggi è martedì grasso, quindi salutiamo tutti quelli che sono in procinto di prepararsi per partecipare alle feste in maschera e alle sfilate, che probabilmente però sono già concluse a data l'ora, a meno che dall'altro lato del globo, in Brasile, invece non si sia che all'inizio di queste samba che effettivamente in questi giorni stanno movimentando un po' quello che è, diciamo, il palcoscenico delle notizie, quelle che ci trasmettono effettivamente con una certa gioia, e fa anche piacere ricevere di queste notizie. È bello vedere come i bambini, anche quelli più poveri, più disagiati, riescono a partecipare a tutta una serie di attività in questo continente strano come quello americano, latinoamericano, che in realtà nasconde, come Bruxelles, tante sorprese. E noi salutiamo anche tutti coloro che nelle Americhe Latine, grazie al nostro podcast, ci ascoltano anche apparentemente con una certa fedeltà. Quindi, insomma, veramente noi siamo onorati e vi ringraziamo, speriamo stiate trascorrendo veramente un felice carnevale, e che carnevale sia. È una Brussellando globale. Ma è una Bruxellando che, dati i dati, scusate il gioco di parole, di cui disponiamo, si scopre effettivamente globale. C'è l'America Latina, l'America La settentrionale, Thailandia persino. abbiamo un po' di Asia, abbiamo un po' di Russia, un po' di Turchia, abbiamo molta Europa. Ovviamente i canali principali sono italiani, quindi tanto da Roma, Firenze, Napoli, Salerno, Bologna, anche dalla Sicilia e dall'Inghilterra. Insomma, siamo contenti. Probabilmente questo è anche dovuto ai nostri ospiti. Abbiamo spesso ospiti che non sono necessariamente gli italiani, magari sono italiani che vivono come noi, insomma, in movimento, e quindi si spostano da una parte all'altra, oppure sono dovuto a tutti i nostri amici belgi che invece sono con noi e che riescono ad allietare le nostre serate. E invece il secondo evento, non meno importante, almeno per la data di oggi, per l'8 marzo 2011, è la festa delle donne. Voi sapete che Brussellando ha sempre dedicato uno spazio a questa festività. Non perché Brussellando reputi che basti la festa della donna per pulirsi la coscienza, assolutamente. Bastasse quello, probabilmente avremmo risolto tutti i nostri guai. Ma come sapete, ci sono festività, e questa la ritengo tale, che vale sempre la pena ricordare. Un po' perché, nonostante ne parliamo, e meno male che ne parliamo, i dati che riguardano le donne, da un punto di vista sociale, da un punto di vista professionale, da un punto di vista affettivo, continuano ad essere ancora maltrattate, malmenate, ammazzate, uccise. Ho letto un articolo su Repubblica stamattina che mi ha lasciato senza parole, di tanto successo ha avuto quel romanzo di uomini che odiano le donne, ed è effettivamente, probabilmente, è anche vero, perché i dati sono in materia sono sconvolgenti, in realtà non c'è veramente mimosa che tenga. E lei non deve dire mai basta, perché questo è quel leitmotiv che invece porta proprio male. E comunque deve essere comunque una giornata dedicata al ricordo, quindi 100 anni fa per la prima volta veniva istituita questa festa. E mi fa piacere segnalare un articolo invece molto molto bello, che poi in realtà non è un articolo, è uno speech che ha tenuto oggi il commissario Reding, Viviane Reding, vicepresidente della Commissione Europea, la quale ha fatto finalmente un discorso intelligente, un discorso maturo, anche molto ricco di speranza. Guardate, lo dico veramente anche con un po' di sano ottimismo, perché ha sostenuto che dobbiamo fare qualcosa. E si è incaricata anche personalmente, e le credo, perché conoscendola insomma in tutti questi anni, in cui grazie anche alle sue regresse attività qui a Bruxelles in commissione, ha finalmente posto l'accento, uno, sulla diseguaglianza salariale. E pensate, ha istituito il 5 marzo come giornata europea della parità, se vogliamo, tra uomini e donne. Pare che le donne di media guadagnano il 17% in meno degli uomini su scala europea, quindi vuol dire che ci sono dei paesi, che sappiamo, i paesi scandinavi, dove c'è effettivamente un'uguaglianza salariale, immaginate negli altri, per dare quella media. Sì, i dati è meglio non scoprirli, pare. Stiamo sempre sul vago e cerchiamo di immaginarli piuttosto che averli. E poi dice, finalmente sarebbe ora se anche nelle grandi aziende ci fosse un po' una quota rosa. In Italia sappiamo quanto è stata discussa la presenza di quote rose, per esempio, in politica. Eppure, ciò nonostante, nonostante alcune donne anche abbastanza discusse del panorama politico italiano, avere comunque una donna alla guida di un ministero marca sicuramente la differenza. Ancora meglio se poi questa donna, ma non è il caso italiano o ancora per il momento, è addirittura... scusate, è arrivato George, è addirittura primo ministro. E pensate che a Oslo, soltanto 2 anni fa, quindi allora fece abbastanza scandalo, si disse che i board delle società norvegesi dovevano essere composti almeno al 40% di donne. All'epoca, pensate, era solo del 25%, il che comunque non era un risultato alquanto negativo, anzi al contrario. Per chi non si adeguava era previsto lo scioglimento dei consigli di amministrazione. Pensate che lo stesso Wall Street Journal dichiarò che si celebrava il funerale del diritto degli investitori. Quindi immaginate quello che era il diktat che si viveva all'epoca sulle pari opportunità del mondo del lavoro. Oggi immaginate invece il 44% dei consigli di amministrazione è composto da gonne d'oro, quindi come dicono i norvegesi, ed è un'idea che comunque sta prendendo piega. Immaginate se in Spagna, dove il governo Zapatero ha fatto una scelta simile, tant'è che la presenza femminile nei consigli di amministrazione è già cresciuta fino al 10% e dovrà arrivare al 40% entro il 2015. La stessa Francia, che pure insomma non brilla per tutta una serie di iniziative, ha approvato la stessa legge, fissando il traguardo 2 anni dopo, nel 2017. In Germania, così come in Gran Bretagna, se ne sta discutendo. Quindi ci sono idee che bisogna avere poi il coraggio finalmente di liberare, di lasciarle, di farle andare, perché prima o poi probabilmente si realizzano. Dani M. Ma volevo dire che nel suo piccolo il gruppo italiano di Radio Alma, diciamo, segue queste direttive, perché se guardiamo la nostra trasmissione 50%, se guardiamo la trasmissione Giro di Boa allo stesso 50% e altre trasmissioni uguali. Quindi devo dire che noi abbiamo colto l'assist. Posso dire una cosa a favore di Bruxelles? Noi non abbiamo colto nessun assist. Prima, perché qui parliamo di provvedimenti di cui si parla nel 2009, Bruxelles esiste dal 2007, Giro di Boa ancora prima. Quindi, se proprio posso correggerti, Danny M., noi siamo stati pionieri di un'idea. Benissimo. Che poi si è diffusa, che insomma si sta realizzando. E c'è un'altra bella frase, voglio concludere, poi veramente la smetto perché effettivamente sto parlando molto, e lo stesso Barroso, che insomma comunque ci rappresenta a livello europeo in termini di commissione, è una donna. volevi dire questo? No, scusa. Ha sottolineato che laddove ci sono le donne ovviamente c'è azione. Allora io, se fossi stata a Strasburgo oggi, avrei alzato la mano e gli avrei chiesto: allora il prossimo presidente facciamo donna, così probabilmente svegliamo un po' dal torpore in cui probabilmente ci troviamo. Giorgetto, ben trovato, benvenuto. Benvenuto, il giorno della donna intervengo anch'io, ma ho distribuito un po' di fiori oggi. Hai distribuito? Che bravo. Sì, colleghe, comunque io non ho ricevuto nessun fiore. Non hai ricevuto nessun fiore? No. Beh, lo riceverai prima di mezzanotte. Ancora l'8 marzo riceverai il fiore. Oh, è vero, ma se le donne fino a mezzanotte, ha ragione. Quindi ormai l'importante è che non sia dovuto al carnevale, cioè no, perché infatti il problema è che oggi coincide la festa delle donne con il carnevale. Perché è un problema? Non è un problema, infatti. Giorgio, oggi è martedì grasso, quindi appunto, oggi al carnevale ogni scherzo vale, la festa della donna è uno scherzo. La battuta ci poteva stare, infatti io te l'ho anticipata, no? Quando tu mi hai detto entro mezzanotte ci possono arrivare pure i fiori, allora io ti ho detto, beh. No, è vero, però no, la cosa è molto più seria, perché in effetti oggi nella seduta plenaria il Parlamento discuteva, ma quote o non quote? E qualcuno era contro le quote e qualcuno invece era forse a favore. Forse più di qualcuno era contro, sì. Diciamo, non lo possiamo dire. Ma donne contro le quote? Ma sai, è una questione di mentalità, perché diciamocela tutta, tutte le donne vogliono poi avere potere, responsabilità, posti con un certo incarico? Assolutamente no. C'è anche da dire che c'è una natura femminile molto marcata in molte donne, meno male che ce ne sono ancora, per le quali invece c'è l'importanza della famiglia, del focolaio domestico, delle relazioni con le amiche, con il nucleo familiare. Voglio dire, sono scelte. Ritorniamo a quel discorso che a Bruxelles abbiamo sempre fatto, che chi sceglie ha deciso di scegliere. Almeno ci auguriamo che chi scelga abbia deciso di scegliere, perché consapevolmente, certo, certa, del proprio cammino. Poi ovviamente ai posteri largo sentenza, perché poi entriamo in un terreno talmente minato laddove non voglio nemmeno entrare. Però io posso immaginare che ci siano donne comunque conservatrici che riescono a immaginare il potere soltanto gestito al maschile. Posso immaginarlo, non faccio difficoltà, vengo pure da una regione che è ancora molto maschilista, quindi voglio dire, in cui il figlio maschio ha e gode ancora di tanti privilegi, vantaggi, insomma, può rientrare più tardi la sera, insomma, può fare tutta una serie di cose, ma non voglio aprire queste parentesi adolescenziali che ho vissuto tanti anni fa, non ne vale nemmeno la pena, perché poi ci sono le battaglie, sì, e si combatte per la propria affermazione. Ma guarda, oggi proprio mentre parlavi di ed questo, è importante, una scelta, no? Sì, è una scelta, parlavi di scelta, beh, oggi ho saputo che c'era una capunità che aveva chiesto di tornare indietro a fare funzionario. Dai, davvero, la prima volta? È la prima volta che io sento che qualcuno vuole tornare indietro a fare funzionario, e questo qualcuno era una donna. Gli è stato opposto un rifiuto e quindi ha continuato a fare capunità. Però ecco, per dire la cosa. Poveretta! Sì, poveretta. No, per dire che insomma è difficile, è vero, ci vuole. Insomma, ci vuole anche polso, ragazzi. Non solo ci vuole polso, ma insomma, bisogna anche esserci portati. Magari uno fa carriera appunto di capunità, però poi alla fine dice: ma no, non era questo quello che volevo, perché non posso tornare indietro. Poi in commissione c'è questa bellissima invenzione che è il deputy, scusate, meglio di così. Il deputy, però io la trovo un'invenzione geniale. Chiunque l'abbia inventata, la trovo geniale. Sì, è veramente geniale. Sta presto, è la politica delle sedie che devono essere moltiplicate. Però quello che invece mi ha fatto riflettere questo tentativo di ritorno è perché proprio non lo immaginiamo. Noi immaginiamo sempre la carriera come per capo unità, poi capo servizio, poi direttore, poi direttore generale, poi ancora più su e avanti. Perché? Cioè, qual è lo scopo? Io farei gli incarichi veramente biennali, forse quadriennali, ecco, un carico quadriennale e poi si valuta, solo che il problema è che i valutatori, e li ricominciamo, poi sono valutati tutti bene, eccetera, eccetera. Ma fare carriera, a che cosa serve fare carriera? Cioè, uno mette a disposizione i propri talenti e dice: io sono in grado di fare capo unità perché ho delle capacità manageriali che vengono riconosciute anche dai tuoi tutto a posto. Di quale mondo stiamo parlando? Del mondo ideale. Ma quello, questo prevede la, la meritocrazia? Beh, non, più che no, non è meritocrazia, mi o spiego la meglio. Competenza, capacità, crazia, chiamalo come vuoi, comunque. È più che altro, ecco, perché no, non confondiamo. Non confondiamo la meritocrazia, noi ci basiamo sempre sul merito, cioè sulle capacità delle persone di fare, quindi questo molto bravo merita di andare su. No, attenzione, essere molto bravi e fare il capo unità o avere sotto sé un gruppo sono cose diverse. Uno può essere un grandissimo tecnico, ma messo a fare il capo unità. Esatto, condivido. E non solo, non so chi ha detto, non mi ricordo più, in una battuta, che il buon Di Pietro, non voglio far politica, ma semplicemente riportare questa battuta, che Di Pietro, ah sì, adesso ora ricordo dove è stata detta questa cosa, il buon Di Pietro è una bravissima persona come politico, in gamba, insomma, effervescente, eccetera, ma come capo del personale non vale nulla. Ecco, allora, ritorniamo di nuovo al concetto di prima, cioè se io riesco a fare leggere direttamente una persona, beh, la responsabilità è di chi l'ha eletto, ma se io invece, come la legge elettorale di adesso, come capo del partito, la segreteria del partito sceglie chi sarà il deputato, beh, a questo punto diventi capo del personale veramente, e quindi se il tuo partito non funziona o se hai dei problemi, beh, devi prima di tutto incolpare comunque, te stesso. Comunque, secondo me, questo però non voleva essere critica, semplicemente era una valutazione sul capo del personale. Andrei poi voglio dire questo, sì, ma questo poi investe tante altre cose, cioè certo. Idealmente in un mondo ideale e cioè, sono poche cose che amo della religione cattolica, lo sapete, non ho mai nemmeno fatto mistero. Però c'è una parabola che ho sempre trovato splendida e che di tanto in tanto mi consola, che è quella dei talenti. Ah. E in realtà se si riscoprisse un po' il talento, quello che noi naturalmente siamo portati a fare, probabilmente poi una serie di idiosincrasie, una serie di malfunzionamenti, di disfunzioni sarebbero già guarite alla radice, alla base. Tuttavia questo non è un problema che può riguardare soltanto l'universo femminile, perché allo stesso tempo, come tu dicevi, perché guardare avanti, interrogarsi la carriera, andare avanti, fare successo? Lo stesso potrebbe anche comunque essere vero per un individuo di sesso maschile. Quanti? Certo. Questo non, può essere valido universalmente, ecco, senza guardare ad una categoria lavorativa piuttosto che a un'altra. Quanti poi invece si trovano in quel posto, tra virgolette, e sono praticamente inadatti al tipo di funzioni che naturalmente non sono proprio predisposti a svolgere. Quindi la discussione ha tanti risvolti, ha tante sfaccettature che sì. Analizzarle tutte in meno di un'ora risulta un po' un'impresa ardua. Però per ritornare poi alla discussione di questa sera, l'auspicio è che un evento, una festa come quella della Festa delle Donne, oggi che ricorre il centenario dell'invenzione di questa festa, in onore di e in ricordo di quelle donne che comunque hanno combattuto, perché tutto si può dire, tranne che il secolo, quello precedente, quello in corso, non sia stato un secolo di conquiste. Allora, guardiamo indietro, però facciamolo in maniera intelligente, in maniera costruttiva, guardiamo cogliendo il meglio, quello che siamo riuscite a fare. Siamo riuscite comunque ad affermarci, riusciamo comunque a dire la nostra. Che sia difficile, che ci siano purtroppo sistemi, istituzioni, mentalità che ancora fanno difficoltà a percepire la presenza di una donna premier, presidente oppure manager o comunque con una posizione dirigenziale, questo è ancora un altro problema. Però congratuliamoci con quante invece sono mogli, madri, lavoratrici, con quanti amano la cultura, con quanti riescono a fare poi un miliardo e una cosa, così come veramente solo le donne riescono a fare. E questo ovviamente vuole essere anche un giorno di riflessione, così come avevamo detto all'inizio puntata, per quelle donne che purtroppo non ce la fanno, per quelle che purtroppo in questo sistema non riescono a sopravvivere, tante ce ne sono, a quelle vittime anche di violenza. E leggevo questo articolo stamattina in cui poi la maggioranza di tutta una serie di cose negative accade tra le mura domestiche, in quell'ambiente dove ci si sente al sicuro, protette, dove invece poi accade il contrario di tutto. E l'Italia poi però probabilmente accade un po' ovunque, sta diventando quasi sempre un po' veramente teatro involontario di tanti gesti di violenza. E questo, tra l'altro, l'abbiamo visto anche a Brussellando. Sono veramente molteplici gli autori che oggi scrivono di giallo. E questa in realtà non è più il giallo noir di una volta. Quando abbiamo parlato, per esempio, della sedia sbagliata, questo romanzo che veramente io vi invito a leggere, di Sara Rattaro, Sara è stata in grado di fotografare un microcosmo, anzi più microcosmi, nell'Italia provinciale attuale, che non solo deve far riflettere, però anche interrogarsi per porre delle soluzioni, perché è chiaro che poi ci sono dei malesseri, ci sono dei disagi, però poi ciascuna età li ha espressi. Quello che è preoccupante è che la nostra età esprime troppi più disagi e riesce ad apprezzare meno quelle che poi sono le bellezze del quotidiano, perché se poi pensiamo veramente ad altre conquiste che hanno riguardato tutti, uomini e donne, dall'uso delle nuove tecnologie alle nuove opportunità che ci sono date, allora ci rendiamo conto che ci sarebbe veramente da essere solo che felici. Invece poi così non è, e qui ovviamente entreremo ancora in un altro discorso, ma il tempo stringe, il tempo è tiranno, e noi abbiamo il nostro ospite questa sera, che è Mariella De Santis, che è stata già qualche anno fa nostra ospite. Mariella è di origine pugliese, però già da qualche tempo ormai vive e lavora a Milano. Ha pubblicato libri di poesia, prosa, teatro, e questa sera noi siamo veramente felici di averla qui con noi, perché parleremo di Con queste mani, una drammaturgia in versi per voce sola e indignazione molta. Mariella. Buonasera. Bentornata. Bentornata. Oh, grazie, ben ritrovate. È sempre un piacere essere a Radio Alma. Oh, che belle, che belle parole, scaldano il cuore. Il piacere veramente. Oh, vi sento, vi ascolto, vado in internet per trovare le vostre chicche, le vostre curiosità. Ah, quindi però. Davvero sono felice. Che bello. No, siamo felici noi, dovrebbe essere la festa delle donne, invece io che non sono una donna, però dico che sono molto felice, che bel regalo sentire che qualcuno ci ascolta anche. Le donne siamo inclusive, quindi benvenuto. Grazie. Noi non tendiamo mai ad escludere in genere. Mariella, raccontaci di te, di questi due ultimi anni, visto che insomma ci siamo sentiti l'ultima volta, addirittura forse 3 anni fa, quindi insomma magari ci racconti un po' di cose che hai fatto intanto da allora. A parte le rughe che arrivano. Le rughe fanno parte dell'espressione e della bellezza di una donna. Oh, ancora smetterla. Diceva comunque, il lavoro, ci ho messo tanto tempo a farle che non le toglierei via per niente. Esattamente. Per ogni ruga un sogno infranto e 10 sogni realizzati. Complimenti, per la festa della donna, quindi viva l'ottimismo. Allora, in questi anni cos'è successo? Continua il lavoro con la rivista che condirigo, che è Smerigliana, periodico di luogo di civiltà poetiche, forse ne avevamo parlato, è una rivista che è nata con l'idea di sprovincializzare un po' l'attenzione alla poesia che c'è in Italia, e quindi di portare poesia del mondo e dal mondo in Italia, ma anche in Europa, perché è una rivista che ha una grossa, che ha una elevata circolazione. E quindi questo è un lavoro molto impegnativo, siamo molto felici perché siamo arrivati al numero 12, il numero 11 aveva circa 600 pagine, insomma, con veramente delle ricerche interessanti sia a livello di saggistica che di poesia, e quindi questa è una cosa che ci fa piacere. Poi che altro è successo? Beh, insomma, fare un po', è difficile fare un po' così il riassunto, perché la vita, però si sono avviate, ecco, anche iniziative editoriali sostenute da Smerigliana come rivista, di poeti appunto non noti perlomeno in Italia. Personalmente ho pubblicato molti libri collettivi, questa è una tendenza che sto avendo negli ultimi anni, perché ho piacere di un gesto condiviso, sento il bisogno di un canto in coro, e quindi ho pubblicato un libro in una raccolta, una guida per su Milano, fatta di racconti, ci sono racconti di Consolo, di Fodi, insomma molto bella, e dove dovevamo noi scrittori parlare di luoghi di Milano attraverso la narrazione. Poi c'è stato questo libro del quale parleremo tra un po', e poi ci sono state altre raccolte, il poema del sonno pubblicato, che avevo letto a Radio Alma, pubblicato finalmente in un libro appunto di 7 poeti, e così insomma. E poi c'è stato questo libro con io e l'altra, che è quello di cui, a cui stavi accennando, che effettivamente è stata un'operazione sia dal punto di vista dell'intento etico, che secondo me dalla realizzazione stilistica letteraria, molto temente, molto forte. Beh, mi sembra insomma di capire che effettivamente sei un vulcano di idee, insomma, di progetti, quindi insomma. Sì, idee e progetti non sempre supportati dalla forza fisica e dalle necessità della vita, insomma, perché poi, almeno nel mio caso, la vita mi chiede anche di, che ne so, pagare il mutuo della casa e non lo facciamo con la poesia, insomma, no? E quindi avere, per me questo è fondamentale, avere, essere una molecola nel mondo e non un atomo, insomma, e quindi quando vivi così, vivi continuamente esposta, continuamente in ricezione dall'esterno e anche poi ovviamente dando all'esterno, quindi questo toglie energie, toglie tempo, spazi, ma... Però se ne ricevono, dai, di energie in cambio. Sì, certo, appunto, ognuno trova la sua verità in qualche maniera. In qualche modo, effettivamente, questo è importante, anche perché è comunque sinonimo di equilibrio. Con queste mani, innanzitutto... Veramente noi tutti ti facciamo i complimenti, primo perché l'argomento di cui hai scritto non è semplice, secondo perché i temi che hai trattato trasversalmente sono temi a cui difficilmente fa piacere parlare, sono temi sicuramente difficili, e prima magari di entrare nella storia, una domanda formale e tecnica: perché hai scelto la forma del monologo piuttosto che invece una pièce magari multivoce? Qui invece la protagonista è una, e non hai fatto invece un qualcosa di più collettivo? Perché questo mi ha stupito molto. Certo, Marina, posso risponderti e lo farò con molta franchezza. Da un lato c'è una aspirazione alta, che era quella di rivisitare la forma del monologo utilizzando lo stilema della tragedia greca, per quello che riguarda il ritmo, la narrazione, e anche creare una interazione, come avrai visto sul testo, poi ne parleremo, insomma, in scena c'è un fantozzo, sì, cioè un esatto, Davide, con il quale la protagonista ha una relazione, quindi era anche il modo di sperimentarmi in questa scrittura, che ho visto poi il testo in scena, perché il testo sta essendo portato in scena, funziona molto. C'era poi questa forma contemporanea, insomma, del monologo, ma utilizzando la forma della tragedia greca, la ritmica della tragedia greca, anche alcune ispirazioni, e poi, e qui dobbiamo essere sempre franchi, leali, se oggi un drammaturgo vuol mettere in scena dei testi, o ha delle grosse produzioni alle spalle, o deve fare testi con pochi personaggi, perché non ci sono soldi. Questo è anche vero, effettivamente, sai. Sì, non ci sono soldi per pagare gli attori, per certo, le scenografie, tanto è vero che si usa a volte anche impropriamente, eccessivamente, insomma, le videotecnologie, ma sempre per rispondere a queste esigenze, di ridurre la presenza in scena degli attori, perché hanno un costo. Milena, la tua protagonista... Scusami, volevo aggiungere qualcosa? Prego. No, dimmi. Allora, Milena, dico, la tua protagonista, sì, la protagonista di Con queste mani. Io ci tengo a dire una cosa prima di sì, tutto, che Con queste mani è uno dei 5 testi del libro Io e l'altra, edizioni Joker, la cui idea iniziale è stata di Maria Inversi, che è stata quella di raccogliere testi di 5 autrici che partissero da fatti reali della, della contemporaneità inerenti alla violenza alle donne, ma con una poi traduzione, con una drammaturgia in versi, proprio per evitare un appiattimento sulla cronaca, no? Cercare di far diventare storia, almeno questa è stata la mia ambizione, la mia aspirazione, far diventare storia la cronaca, storia e poesia e letteratura. E, quindi appunto con queste mani, quando io mi sono dovuta così interrogare su cosa scrivere, mi sono ricordata, avevo ben presente degli articoli di giornale che avevo raccolto, tagliato nel tempo sulla appunto su alcuni neanche scandali, perché sono cose che lo scandalo è quando un atto abietto è noto, ma su alcune abiezioni appunto note in alcune missioni umanitarie, missioni cosiddette di pace, di traffici pedofili da parte degli umanitari stessi, degli operatori stessi nei luoghi dell'intervento, e avevo raccolto diverso materiale. Poi è capitato che ho letto un'intervista di Emilio Quadrelli su Alias ad una donna albanese, e qui ho fatto altre ricerche, ho contattato il giornalista, eccetera, e nell'intervista questa signora si chiamava Anna, io le ho dato ancora un altro nome perché è una trasformazione della trasformazione, però cercando di far... di far emergere comunque la dignità dell'essere umano, e gli ho dato appunto un altro nome perché io stavo facendo un'altra operazione oltre all'intervista, e Milena, quindi la protagonista del mio testo, racconta, dice nel corso del testo, vicende assolutamente reali che riguardano il suo rapimento all'età di 13 anni nel 1996 per essere portata a lavorare in una fabbrica italiana in Albania, i ripetuti stupri, la deportazione in un bordello per militari, paramilitari e civili operanti in Albania nel 98, la liberazione a mano armata nel 2004 da parte del fratello, o minore che ormai era diventato un uomo, al comando di una milizia di trafficanti d'armi. E poi la sua condizione di vita al momento dell'intervista, che è lei vive da criminale ora. Certo. Vive da criminale, deruba, uccide, e però qui c'è la relazione col fantoccio che io ho creato in scena, perché comunque io ho rispettato la verità della sua vita, ma ho rispettato anche la verità della mia, che è quella della speranza. Della, dice qualcuno di molto noto in questi tempi, l'audacia della speranza. È audace sperare oggi, però io voglio pensare nell'amore, nella, anche queste parole diventano abusate e difficili da usare, ma che ci sia sempre la possibilità. Ecco, in fondo in questo testo io mi sono interrogata tantissimo su come oggi io osservi nella nostra contemporaneità qui vicino a noi come il bene e il male siano assolutamente vicini. Una missione umanitaria è sicuramente un'azione per il bene di qualcuno. All'interno di questa può, non necessariamente, cioè ovviamente, può esserci anche il male, ed è una realtà, una evenienza oggi diffusissima nel piccolo, nel piccolissimo, nel nostro condominio, come nelle vicende più grandi. Questo mi interessava molto, e quindi alla fine c'è un atto di non pacificazione, perché io rispetto il fatto che la Anna o nel mio testo Milena non si sia mai pacificata, io rispetto questo, ma di trasmissione. Non so se ci sarà tempo, leggiamo magari proprio finale del testo, ecco, in cui lei fa questo passaggio, questo riconoscimento del diverso modo in cui si può esistere e del rispetto per le esistenze diverse dalle proprie. In fondo, ti ricordi, Marilena, diceva Gide, aveva scritto quel libro bellissimo, La porta stretta. Sì, sì. Dico sempre che nella vita c'è chi entra nell'esistenza da una porta stretta e non riesce più a rialzarsi. È così, è duro, ma è così. Era l'anno 1991. Arrivavano nel porto della Bella Bari le navi piene malevolenti. Con quelle foto poi Fece fortuna l'astuto tessitore. I colori marci della fame li usò per vendere sogno di mercanzia. 8 gli anni tuoi, 8 quelli miei. Futuro incerto il mio quanto quello tuo. Ma tu, almeno sino ad oggi, la ferocia l'hai scampata. Ora siamo qui, tu rapita, io rapitrice. Tu solenne Creta, io umida cripta. Siamo qui bandiere, lacerate di patrie malfamate. La tua quanto la mia. Non ti permettere, né la punta del piede, né lembi dei miei capelli devi tu toccare. Con queste mani tu non sai che cosa ti ho fatto e cosa potrei ancora fare. Donne a migliaia al mare affrontavano, madri, sorelle, amiche, mogli. Un giorno all'altro dietro un'onda ci lasciarono. Case vuote, letti sfatti, figli da chiamare in un futuro che si sperava non lontano. Rimanevano ad abitare un presente disumano. Ho saputo poi che florida sorte non arrise a molte. Marciapiedi, squarci sul ventre, notti lunghe con la paura di clienti, pochi e botte molte. Intanto arrivavano alte bionde, ancora più giovani, jukebox del sesso, quei 20 centimetri di notte ad assediare. Tutte insieme saremmo un esercito di demoni pronti alla vendetta. La fame, paura e maledetto istinto di sopravvivenza fanno di noi carne da macello. Questo tu lo sai, lo vedi e scrivi sui tuoi giornali giorno dopo giorno. Ma pensi che basti per farti a noi sorella? Assistenti sociali, educatori di strada, suore, case d'accoglienza o come le chiamate. Sai qual è la cosa vera? Noi, a voi, diamo da mangiare. Operazione Alba è prima quella Pellicano, con nomi belli e pieni di poesia portate qui di voi peggiori che non terreste a casa nemmeno a pagamento. Le chiamate azione umanitaria. Mi dirai se è vero. Non avrei ascoltato quello che ho da dirti io. Ecco, così va meglio. Questo solo oggi mi piace. Un'arma tra le mani mi piace. Ma ancora meglio è con queste mani. Se ancora ricordassi cosa esattamente vuol dire essere buoni, questo direi tu sei. Mi ricorda il tuo viso una foglia docile al vento, le tue braccia un canestro pronto a dondolare. Ma non capisco più quella parola. Bontà è polvere e cemento che mi solca il labbro, mi dissecca il senno. Marella, c'è poi un'altra domanda che... Complimenti, una lettura splendida. Sai, George si lascia sempre trasportare, poi insomma la tua scrittura è anche molto intensa, quindi insomma questo rende la lettura ancora più partecipe rispetto ai sentimenti espressi dalla protagonista. C'è però un'altra domanda che ci sarebbero tante domande in realtà, però purtroppo il tempo in radio è ahimè tiranno, però questa domanda ci tengo a fartela in particolare, che è il titolo Con queste mani. Ci ho riflettuto molto e ho pensato che, però correggimi se sbaglio, un'interpretazione che magari è del tutto errata, che mi è piaciuta perché ho pensato alla molteplicità di una donna, alle tante cose che è capace di fare ora contemporaneamente, ora insomma disparatamente, ai tanti ruoli che riesce poi ad assumere, ora donna, ora madre, ora amante, ora lavoratrice, ora autrice, ora artista, insomma sono tanti i ruoli. Quando invece tu hai pensato al titolo Con queste mani, a che cosa pensavi esattamente? No, guarda, siamo molto molto vicine e sono felice che anche chi non sa nulla di quello che è stato il percorso, l'itinerario creativo, senta questa suggestione del titolo, perché appunto è la potenza creativa e la potenza distruttiva, e quello che ovviamente lei mi è nata davanti in un certo modo. Io l'ho scritto sempre immaginandomi lei che mi parlava, lei che diceva, che agiva, e quindi queste mani che muoveva. Ma il motivo per cui sicuramente, questo ovviamente io ci ho riflettuto dopo, io guardavo sempre le sue mani mentre scrivevo e poi ho intitolato in questa maniera, è proprio questa grossa, questa forte simbologia delle mani delle donne, che sono appunto mani carezzevoli, mani industriose, mani anche che danno la sculacciata al figlio. Ah beh, certo, quando ci vuole, insomma, diventa necessario anche quello. Quindi è proprio quello, sì, e quindi è proprio quello che tu hai detto. Artifex è... Una domanda a bruciapelo. Si dice che dietro ogni grande uomo ci sia una grande donna. Secondo te vale anche il reciproco? È difficile averlo, un grande uomo è sicuramente un buon ingaggio nella vita, insomma. Per quello che mi riguarda, devo dire che non so se sono una grande donna e quindi mi escludo dalla partita. Molto diplomatico. Non so, è un antagonismo che non voglio mettere in campo. E poi oggi dovremmo parlare di grandi donne dietro grandi donne, grandi uomini dietro grandi uomini, vai a capire cos'è la verità delle persone, la verità dell'esistenza. Quindi credo, però questo ti posso dire, credo che dietro ogni grande persona ci sia una grande esistenza, e quando parlo di questo voglio dire di una forte comunione con l'umano. Bellissimo, questo sì, questo grazie, sì. Grazie infinito. Veramente questo è... Mariella, noi siamo in chiusura, sì. Cosa bolle in pentola, cosa c'è in previsione per il futuro? C'è un lavoro, un po', è la prima volta che mi cimenterò con questa cosa qui, che è una riscrittura dei Salmi. Cui stiamo lavorando 100 poeti italiani, magari dopo ve ne faccio avere notizia, visto che con piacere. Pronto. E quindi c'è questa iniziativa prossima, stiamo lavorando, insomma, su Salmi per la contemporaneità, ovviamente partendo da posizioni personali. Quindi la chiave di lettura è libera, non c'è una chiave di lettura precisa. Beh sì, chi sta curando il libro chiede una coerenza con il testo, il testo biblico, col salmo, insomma, però credo che questo sia un ingaggio minimo accettabile, perché poi noi autori abbiamo deciso che, insomma, rispetteremo alcune nostre anche laiche vocazioni. È appena uscito un libro contro la mafia, e anche questo è un libro collettivo, L'impoetico mafioso. E adesso vorremmo cercare di lavorare con le scuole, far lavorare gli studenti su questo tema. Avrei in mente la prosecuzione, anzi più che prosecuzione, accennavo prima al racconto che avevo scritto su Milano, che si chiama L'ultima rampa di scale, e insomma chiederebbe di diventare qualcosa di più di un racconto. Noi te lo auguriamo. Ecco, sì. Guarda, grazie, dicono gli ebrei, dalla tua bocca all'orecchio di Dio. Molto bene. che possa essere così. Bene. Allora Mariella, noi ti auguriamo ancora uno splendido 8 marzo, un'ottima serata, insomma. Grazie. C'è meglio anche questo. Questo non potevo averlo. Bene, noi ti salutiamo e quindi speriamo di avere ancora tue notizie, e ovviamente con queste mani noi speriamo di ritrovarci, magari, chissà. E di costruire qualcosa di buono. Certo, io continuo a seguirvi. Grazie, ci fa piacere. Grazie. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Librangolo. Quasi, avresti dovuto fare stile giapponese stasera. Perché? Fatto stile salmo. Librangolo. Grazie, ecco, ci siamo. Librangolo. Perché si tratta di un libro bellissimo di Banzai. David Mitchell, che si chiama I mille autunni di Jacob de Zoet. I mille autunni, sì. Di Jacob de Zoet, che è davvero, cioè, è da tanto tempo che non leggo un libro che davvero ti lascia molto difficilmente andare, che vorresti davvero leggere in un solo fiato, e purtroppo non ho più 18 anni, quindi non l'ho fatto. però proprio c'era questa impazienza di continuarlo. E allora, prima faccio un po' di contesto, perché non vorrei nemmeno dirvi troppo dell'azione, perché dopo vi rovino le sorprese. Allora, si tratta di un enclave, di una piccola isola artificiale su cui gli olandesi, i mercanti, possono usare per fare commercio con il Giappone, un mondo completamente chiuso. Facendo un paio di passi indietro, gli europei sono arrivati in Giappone prima volta, penso nel XVI secolo, ed erano dei portoghesi e spagnoli che non soltanto portavano del commercio, ma portavano anche la religione, e c'era stata addirittura una rivolta cristiana che dispiacque tantissimo ai giapponesi, e quindi hanno detto fuori, s'il vous plaît, e la prossima volta che qualcuno è arrivato per fare commercio, cioè prima di tutto non lo facevano più con i portoghesi e gli spagnoli, hanno deciso di farlo con gli olandesi, ma anche gli olandesi non potevano mettere piede praticamente sul suolo giapponese, soltanto i funzionari più alti per brevissimi tempi, ed erano confinati su questa isoletta che era usata per come loro alloggio, ma come loro punto, diciamo, di sbarco di merci, eccetera, e di scambio. E Jacob de Soete è un giovane funzionario che arriva c'è una compagnia delle Indie d'Est dell'Olanda, e lui arriva là per fare la fortuna, perché in 5 anni dovrebbe tornare in Olanda e sposarsi la sua amata. E questa è la situazione di base. Ovviamente la sorte vuole le cose in modo leggermente diverso, e alla fine Jacob de Soete non spenderà 5 anni, ma 20 a Dejima. E l'altra non aspetta? Leggiti il libro. però quello che... e ovviamente succederanno tantissime cose, però quello che... ho trovato molto interessante di questo libro è che ad ogni passo ti mostra un altro volto di ogni persona, e penso che anche nella vita reale succeda così. Cioè, noi capiamo fin dal primo momento che questo Jacob de Soete non è uno stupido e non è uno sprovveduto, però si innamora, e innamorandosi si atteggia in modo leggermente stupido, no? Leggermente stupido e naif, come farebbe qualsiasi persona innamorata. E quindi all'inizio vediamo questa persona che, diciamo, sembra un po' naif, poi la storia fa una svolta e tutto diventa completamente diverso, diventa quasi un'avventura cupa, che ed è là che si comincia a mangiare le pagine praticamente, a grandi, grandi morsi. E poi vediamo anche l'arrivo della saggezza, con ovviamente ci sono tante cose che succedono, ma non ve lo voglio dire, perché davvero è un piacere leggerlo e non vorrei... anticipare troppo. E quello che c'è ancora di bello in questo libro sono anche i pensieri che a volte si accendono sul cielo, diciamo, delle azioni. Cioè, per esempio, c'era un pensiero che era fra la connessione della natura dei popoli e la loro religione. Cioè, tipo la semplicità, in un certo senso, la razionalità degli olandesi e la loro religione del protestantesimo, la luce abbagliante del Mediterraneo e anche le ombre che ci sono nel Mediterraneo, e la religione che c'è connessa, che è il cattolicesimo, che ha le sue ombre impenetrabili ma anche la sua luce accecante. E poi quando arriva al Giappone non riesce più a definirlo bene, perché il Giappone invece è praticamente intrasparente, perché lo vuole essere, ed è un casino totale. Quindi è difficile definirlo altrettanto chiaramente come si riesce con l'Europa del Nord, l'Europa del Sud. Comunque ci sono dei pensieri molto interessanti che a volte il nostro Jacob de Soete ci fa arrivare, e anche delle riflessioni sulla sorte, su... Se noi facciamo certe cose, succedono certe cose, però magari se succedono queste cose è meglio di quanto sarebbe successo se non... Cioè, uno non sa mai le conseguenze delle sue azioni, anche se al momento, e questo è giapponese piuttosto che europeo, che anche se al momento sembra una cosa brutta, le conseguenze poi magari porteranno ad uno scioglimento che è veramente quello più desiderato dalla logica della vita, diciamo. E questo è piuttosto un pensiero taoista, non è necessariamente perché c'è questo, non so se conoscete questa storiella taoista, e mi devo sbrigare, in cui c'è uno saggio, è un giovane ragazzo. Quello che succede è che il giovane ragazzo cade dal suo cavallo e si rompe le gambe, viene il padre e si lamenta: si è rotto le gambe, e il saggio dice: non si sa mai. Il giorno dopo vengono a reclutare e portano via tutti i giovani sani, e non portano via il ragazzo che ha la gamba rotta. E questa storia è molto più lunga, ho colto soltanto uno degli aspetti, perché c'è proprio un incatenamento di eventi che sembrano al momento delle catastrofi piccole, però dopo si avverano sempre come atti quasi di provvidenza. E diciamo, la storia di questo libro comunque dimostra questa dualità, cioè la disperazione del momento, anche il sentimento di colpa, e poi invece la necessità di questa disperazione, di questa colpa, perché le cose si possano aggiustare veramente. E quindi, cioè, un libro bello, un'avventura bella, una location unica. Sì. Quindi vi raccomando molto calorosamente. Tu in che lingua hai letto il libro? In inglese, però esiste la traduzione italiana, e si chiama I mille autunni di Jacob de Zoet, di David Mitchell. David Mitchell. Vabbè. Vado a comprare, già mi sono già convinta. Ma se io ho ancora un minuto, io vi dirò di una cosa interessante. Questa è una notizia. Un attimo, preparazione psicologica, rimangolo. È arrivato anche dalle nostre parti il Espresso Book Machine. Avete mai sentito questa roba? Cioè, praticamente è una stamperia. Una macchina stamperia che tu puoi scegliere dei libri che sono fuori print, diciamo, non sono più, non si trovano nel commercio, e tu spingi un bottone e ricevi il libro. È un ebook? Come un ebook? Non è come un ebook, perché proprio te lo fa, te lo lega, non soltanto te lo stampa, ma te lo rilega anche. Sì, ma a partire da che cosa? A partire di una database molto ricca di libri, e puoi portare a partire anche delle cose che porti tu, cioè per esempio se tu porti su una chiavetta la tua propria opera, esce quello. Ma stavo pensando anche questa cosa qua, cioè i libri che però non sono più ristampati, però ci sono ancora i diritti d'autore, come funziona? No, questo non c'entra con i diritti d'autore, cioè spesso ci sono semplicemente dei classici che non si trovano più perché non sono abbastanza popolari per giustificare 10.000 copie, e invece tu riesci così a stamparli. Quindi diciamo che almeno quelli che non hanno più, devono più pagare i diritti d'autore, ci sono. Ma è una grande notizia, cercate questo Espresso Book Machine. Ce ne sono due soltanto in Europa per il momento, quindi non vi preoccupate troppo. Uno è in Olanda e l'altro invece era l'esposizione del libro, questo fine settimana, cioè il fine settimana scorso in Antwerpen. E stavolta dobbiamo davvero chiudere. Cari amiche e cari amici, ringraziamo Dani M in regia, ovviamente i nostri George e Imola. Auguriamo a tutte voi ancora una splendida serata in occasione della Festa della Donna. E anche del Martedì Grasso. Del Martedì Grasso, insomma, divertitevi, perché ovviamente questa è la cosa più importante ed è quello che ci resta. Maledì vi saluta, martedì prossimo. Ciao!